Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Ors Fantazzini, parte seconda. Tenendo sotto controllo i due secondini con funzioni amministrative, controllo l'ufficio. Non mi piace. Le finestre danno verso la caserma delle guardie, poi c'è solo il telefono interno. Faccio traslocare i due e ci portiamo nell'ufficio del direttore, che malauguratamente è privo del direttore, che si trova in ferie. L'ufficio è piazzato in modo ideale per barricarsi e sulla scrivania troneggia un utilissimo telefono. Faccio accomodare Grasso e Piccirillo su d'un comodo divano. Ordino loro in mobilità assoluta e provvedo ad allontanare dalla loro portata ogni oggetto contundente che in caso di improbabili ma pur sempre possibili raptus eroici potrebbero venire utilizzati in modo antipatico. Osservo i miei due ostaggi. Il giovane Piccirillo sembra calmo, Grasso impaurito. Dico loro che la situazione è critica per me e per loro, ma se collaboreranno senza tentare colpi di testa, le loro possibilità di uscire vivi da questa avventura saranno maggiori delle mie. Aggiungo che se tenteranno di reagire, non esiterò a sparare loro come ho già fatto con i loro colleghi. Ma assicurano che non faranno sciocchezze. Una voce mi chiama dal corridoio. La riconosco come appartenente ad un detenuto che lavora in un ufficio accanto. Ma faccio sulla porta. Il ragazzo è impaurito. Mi chiede se può andarsene. Lo tranquillizzo e gli dico d'andarsene subito. Un altro detenuto, che lavora nell'ufficio di Bussotti, avanza la stessa richiesta. Dico anche a lui d'andarsene, aggiungendo che dica in basso che la custodia non tenti azioni di forza, pena la vita dei due ostaggi. Improvvisamente sento nel corridoio un rumore di passi che camminano sui vetri infranti. Mi precipito fuori, arma in pugno, e mi trovo davanti l'enorme mole del maresciallo aggiunto Lococo. Dov'era? Forse nascosto nel gabinetto? È terrorizzato e alla vista dell'arma si mette a correre nel corridoio. Perché sparargli? Non posso fare a meno di sorridere alla vista di questa ippopotamotesca silhouette che percorre così velocemente il corridoio. Sento Bussotti lamentarsi. Da lontano, senza perdere di vista i miei ostaggi, gli chiedo come sta e se gli è possibile alzarsi. Mi risponde di sì. Gli dico d'affacciarsi sulla porta del suo ufficio. Dopo un poco obbedisce e appare sulla porta con la mano premuta sul petto insanguinato. Gli chiedo se se la sente di camminare. Titubante, non conoscendo le mie intenzioni, mi risponde di sì. Gli dico d'andare a farsi curare. Resta incredulo. Poi se ne va con la meraviglia dipinta sul volto. Un ostaggio ferito sarebbe stata un'ottima forza di persuasione psicologica, ma non me la sono sentita da approfittare di questa circostanza. Esco con gli ostaggi, ispeziono gli uffici, nessuno. Faccio chiudere a chiave la porta d'ingresso e tutte le altre porte. Rientriamo nell'ufficio del direttore. Socchiudo la porta e vi appoggio un lampadario contro, di modo che non sia possibile sorprendermi senza fare rumore. Mi piazzo ad un lato della scrivania del direttore, riparato da un armadio. Se qualcuno entrasse di forza, riuscirebbe a vedere solo i due ostaggi sotto il tiro della mia arma. Non riuscirebbe a vedermi mentre io lo sentirei subito entrare. Sento che momentaneamente la situazione è sotto il mio controllo e questo mi tranquillizza notevolmente. Anche i miei ostaggi sono più tranquilli e da questo momento più che me cominceranno a temere ciò che potrebbero preparare i loro colleghi insieme alle forze dell'ordine. Dico a Grasso di chiamarmi al telefono. Il maresciallo trascorre un minuto e Lococo è dall'altra parte del filo. Dal suo modo di dire pronto comprendo che è ancora turbato dal nostro incontro nel corridoio. Nel carcere la confusione deve essere enorme. Non ho ancora sentito le ambulanze venire a raccogliere i feriti. Dico al maresciallo che, data l'assenza del direttore, lui è momentaneamente l'autorità più elevata del carcere e che quindi la vita degli ostaggi dipenderà dalle decisioni che lui prenderà nei prossimi minuti. Gli faccio comprendere che qualsiasi tentativo di forza si risolverebbe nella morte degli ostaggi. Gli dico che ho due caricatori di riserva, cosa assolutamente falsa, e che non esiterò a servirmene. Dal suo modo ossequioso ed imbarazzato di rispondermi, comprendo che non ha intenzione di prendere iniziative e che è in attesa d'ordini dall'alto. Chiudo la comunicazione e dico al brigadiere Grasso di chiamarmi il procuratore capo di Torino. Mi rendo conto che da questo momento il mio autocontrollo giocherà un ruolo importantissimo. So che da questo momento inizierà uno snervante assedio e che verranno usate tutte le finezze psicologiche per farmi crollare e spingermi alla resa. Giuro a me stesso che non cederò. Sono l'unico a sapere che mi resta ancora una pallottola e in questo momento decido che se non mi sarà lasciata una via di scampo, quell'ultima pallottola sarà per me. L'attesa. Ore 10. Il procuratore capo di Torino non si trova. All'apparecchio viene un sostituto, al quale ribadisco quanto già detto a Lococo. Aggiungo che per loro forse la vita di due agenti di custodia ha ben poca importanza, ma che purtroppo non dispongo di un procuratore da mettere sulla bilancia delle trattative. Cerco di fargli comprendere che al punto in cui sono arrivato non ho più nulla da perdere e che quindi penso che non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che non esiterò a mettere in atto le mie minacce nel caso venisse tentata una soluzione di forza da parte delle autorità. Per quanto concerne le mie richieste, le farò conoscere quando sarò messo in contatto con un magistrato più elevato in grado o con un funzionario del ministero delegato a trattare. Il sostituto torinese non nasconde la sua stizza, ma evita intelligentemente di innervosirmi. Sirene d'ambulanze mi fanno comprendere che finalmente i feriti sono stati trasportati all'ospedale. Il grave ritardo comunque mi fa pensare che Gianquinta e Massaria sono forse morti. Bussotti è stato certamente trasportato all'ospedale da qualche collega. Ogni tanto qualche piccolo rumore mi fa sobbalzare. Faccio continuamente la spola dalla scrivania alla porta socchiusa per controllare ogni rumore sospetto. Questo mio comportamento, forse interpretato come manifestazione di nervosismo, preoccupa Grasso. Cerco di tranquillizzarlo, dicendogli che le loro vite sono in mano alle autorità. Se non vi sarò costretto, non torcerò loro un capello. Questo non lo tranquillizza. Dice che le loro vite valgono poco. Del resto, aggiunge, ci chiamano carne venduta. Già, carne venduta. È vero, questa espressione risuona spesso nelle carceri ed è di provenienza meridionale. Quest'umiliante qualifica è perfettamente comprensibile. Quasi tutte le guardie carcerarie provengono dal sud, così come le forze dell'ordine. L'arruolamento è uno dei pochi sbocchi per uscire dalla sottoccupazione, dalla miseria, dalla precarietà. Lo stipendio non è certo alto, ma è sicuro. Così questi figli della miseria tradiscono più o meno consapevolmente i loro fratelli di sofferenza, vendendosi a quelle istituzioni create appositamente per mantenere e perpetuare le attuali ingiustizie sociali. Il figlio di pastori sardi, fattosi secondino, troverà in carcere altri pastori sardi che per sopravvivere hanno preferito rubare due pecore piuttosto che farsi secondini. Il figlio di braccianti, fattosi poliziotto, si troverà a bastonare braccianti e operai che lottano per ottenere migliori condizioni di vita. Così fratelli d'una stessa classe s'affrontano tra di loro mentre il nemico, quello vero, nemico comune agli uni e agli altri, ride odiosamente al di fuori della mischia. Il telefono tace. A quest'ora i papaveri competenti sono necessariamente allertati. Se non cercano di mettersi in contatto con me, vuol dire che questo rientra nei loro disegni. Cosa stanno tramando? Cerco di pensare che cosa farei io in una situazione del genere, se fossi un dirigente della polizia ed avessi ricevuto l'ordine di eliminare Fantazzini senza compromettere troppo la vita degli ostaggi. Cercare di snidarmi sarebbe stupido, dato che loro non sanno che non mi resta che un'ultima pallottola e che messo alle strette la userei per me senza esitazione alcuna. E se facessero il conto dei colpi da me sparati e si convincessero che non ho munizioni di riserva, che sto bluffando, dico a Grasso di telefonare al centralino e di passarmi la linea. Ecco di nuovo il maresciallo. Gli dico di passarmi il più alto funzionario giunto alle carceri. Esitando, mi dice che non è ancora giunto nessuno, che sono partiti da Torino e che giungeranno tra breve. Gli dico che se entro mezz'ora non avrò il procuratore capo di Torino al telefono, succederà l'irreparabile. Gli dico d'attendere perché voglio farlo parlare con Grasso. Passata la cornetta al brigadiere, gli dico di pregare lo Coco di dissuadere chi che sia dai tentativi di azione di forza, perché ciò significherebbe sacrificare lui e Piccirillo. Mostrandogli la mia tasca rigonfia, contiene una genta che mi porto dietro da anni. Gli dico che ho due caricatori di riserva e che voglio che informi di questo il maresciallo. Grasso è estremamente convincente ed è con vero terrore che scongiura il maresciallo di impedire colpi di testa. Esagera persino il numero dei caricatori, affermando d'averne visti tre. Bene, adesso lo Cocco farà la sua brava ambasciata, dato che sono certo che il carcere pullula di magistrati ed alti funzionari di polizia. Riprendo a riflettere su cosa staranno tramando là fuori. Il telefono che suona mi fa sussultare. È il telefono interno della stanza attigua, l'ufficio matricola. Il telefono si trova vicino alla finestra rivolta verso la caserma delle guardie. Il telefono suona lungamente prima di smettere. Strano, loro sanno perfettamente dove ci troviamo. Perché non chiamano qui? Dopo un poco ecco che riprende a suonare. Perché insistono a sbagliare? No, non è solo strano. Sono certo che se passassi nell'altra stanza non farei in tempo a staccare la cornetta che un tiratore scelto mi farebbe secco. Dunque, questo è il loro primo tentativo per risolvere la vicenda. La cosa mi preoccupa perché è indice che dall'alto sono giunti ordini contrari alla possibilità di entrare in trattative con me. Horst, stai attento, questi sarebbero felicissimi di infilzare la tua testa in un paletto per mostrarla in piazza. Il processo te l'hanno già fatto. Le finestre della nostra stanza sono socchiuse, ma le imposte sono aperte. Grave dimenticanza, in lontananza si scorgono dei tetti. Dico a Piccirillo d'alzarsi e di chiudere le imposte della finestra, dalla quale forse sarebbe possibile scorgermi. Le imposte dell'altra finestra sarà sufficiente socchiuderle. Ore 11:30. Il telefono suona. È l'ispettore regionale che dice d'essere incaricato di riportare al Ministero di Grazia e Giustizia le mie intenioni. La voce non nasconde il tono di chi è abituato al comando. Gli riassumo brevemente quanto è successo, chiarendo che era mia intenzione evadere senza inutili spargimenti di sangue. La reazione delle guardie mi ha obbligato a sparare ed a modificare totalmente il mio piano iniziale. Gli dico che adesso mi trovo in una situazione imprevista e sono costretto ad improvvisare tutto, che mi rendo perfettamente conto che le mie possibilità di farla franca sono minime, ma che intendo sfruttare queste possibilità sino all'estremo limite. Dopo quanto è successo, dico. Esistono due sole possibilità, strappare la libertà o morire insieme agli ostaggi. Gli dico che non ho ancora un piano preciso, che per il momento, se ci tengono all'incolumità degli ostaggi, si debbono limitare a non tentare alcuna azione di forza. Più tardi renderò note le mie richieste. Per il momento voglio una radio a transistors. Con lo stesso tono di voce calmo concludo dicendogli che per il momento il suo compito più importante è di vegliare affinché nessuno tenti azioni avventate. Mi dice che non saranno tentate azioni di forza. Questo non per riguardo alla mia persona, ma per evitare altro spargimento di sangue dopo i ferimenti di stamane. Nel caso mi possa interessare, aggiunge, i due feriti più gravi sono ancora in vita. Dei due è Gian Quinta che desta maggiori preoccupazioni, ma non si dispera di salvarlo. Bussotti è praticamente fuori pericolo. Dato che non è ancora successo niente di irreparabile, aggiunge, la cosa migliore e più intelligente sarebbe di desistere dal mio tentativo d'evasione. Rispondo che a questo punto è impensabile che io possa arrendermi. Stasera sarò libero o morto. L'ispettore dice che riferirà integralmente il nostro dialogo a chi di dovere. Riferirà tutto, persino il mio tono di voce. Cercheranno la radio e appena l'avranno trovata mi richiameranno affinché io faccia loro sapere con quale mezzo debbano farmela pervenire. Mi chiede di poter parlare con gli ostaggi per sincerarsi del loro stato. L'accontento e grasso. Lo prega di esaudire ogni mia richiesta, altrimenti ne è certo lui ed il suo collega non usciranno vivi da questa avventura. Questa telefonata non sembra avere sollevato di molto grasso. Piccirillo invece sembra tranquillo. Osserva continuamente la mia Mauser. Cosa sta pensando? Gli chiedo se sta sognando una medaglia e dei gradi nuovi fiammanti per avere con abnegazione e senso del dovere rischiato la vita per disarmare un pericoloso bandito. Resta stupito del mio tono scherzoso e replica che non ha nessuna intenzione di fare l'eroe. Gli dico di non mettersi in testa delle sciocchezze, ribadendo che non ho odio personale contro di loro, che considero dei piccolissimi ingranaggi di una mostruosa macchina la cui vera funzione sfugge loro. Ripeto che non succederà loro nulla, a patto che non cerchino di intralciarmi come hanno fatto i loro colleghi Massaria e Bussotti. Assentiscono entrambi. Poi Piccirillo mi sorprende dicendomi che ha fame. Ore 12. Do disposizioni telefoniche per farci pervenire da mangiare, da bere, solo aranciata, da fumare e la radio. Piccirillo si presenterà alla finestra dell'ufficio matricola. Io seguirò i suoi movimenti da lontano facendomi scudo di grasso. Dal basso tireranno un gomitolo di spago che Piccirillo afferrerà. Ad un capo del filo sarà legato un cesto contenente quanto richiesto. Piccirillo tirerà su il tutto comprendendo che un eventuale scherzo metterebbe a repentaglio l'incolumità del suo collega. Piccirillo comprende perfettamente la situazione e tutto si svolge senza intoppi. Piccirillo, come convenuto, appoggia il cestino sul tavolo, vicino al telefono, e ritorna al suo posto sul divano. Solo allora permetto anche al brigadiere di riprendere il suo posto accanto al collega. Controllo il contenuto del cestino: prosciutto cotto, pane, sigarette, una bottiglia d'aranciata, una sgangherata radiolina con batteria esterna tenuta ferma con degli elastici. Ho sete. Sturata la bottiglia, invito il Piccirillo a bere un lungo sorso d'aranciata. Io e Grasso non abbiamo fame, quindi è il giovane Piccirillo che inizia a mangiare con apparente appetito il pane ed il prosciutto. Decido di attendere un poco prima di bere per osservare le reazioni della cavia Piccirillo. Io e Grasso fumiamo moltissimo, una sigaretta dietro l'altra. Piccirillo non ha questo vizio. Sento dei rumori sopra le nostre teste, passi mobili spostati. Grasso mi dice che si tratta dei detenuti che lavorano nella sartoria. La cosa sarebbe troppo assurda. Torno Telefono immediatamente e dico che se non la smetteranno di tentare sciocchezze si troveranno a dover portar fuori 3 cadaveri. Allarmati mi dicono di stare calmo, che nessuno ha intenzione di rischiare delle vite umane. Forse è vero, ma potrebbero tentare di mettere dei gas soporiferi da qualche piccolo foro praticato nelle stanze attigue. Si tratterebbe di un pericolo remoto, dato che le finestre di tutte le stanze sono aperte. Comunque non si sentono più rumori sospetti. Quali probabilità ho di farla franca? Poche. Uscire di qui non è il problema principale. È chiaro che se otterrò una macchina, questa sarà continuamente seguita a distanza con l'ausilio di segnalatori acustici. Nel momento stesso in cui abbandonerò gli ostaggi, scatterà una formidabile caccia all'uomo. Mi troverò al centro d'un cerchio che si stringerà sempre più. Come filtrare attraverso la trappola? Il fatto d'avere con me dei documenti falsi e che loro non lo sanno è un punto a mio vantaggio. Una possibile soluzione si fa luce nel mio cervello. Forse è però necessario attendere il buio per eludere la sorveglianza degli elicotteri. Restare ancora serragliato qui dentro per tante ore? Il rischio vale la candela. Col buio le mie possibilità di farla franca saranno notevolmente maggiori. Osservo i due secondini detenuti. Il Cirillo mangia in silenzio. Grasso non fa che accarezzare ed ostentare la sua fede matrimoniale. Mio malgrado gli domando se ha figli. Sì, due. Anch'io ho due figli. La fede non la porto, ma se ce l'avessi, ringraziando Rocco, potrei trastullarmi ad accarezzarla per 30 anni. Anna, tra poco qualcuno si premunirà di darti la notizia di quanto sta succedendo a Fossano. Forse lo sai già, forse hai ascoltato il notiziario della radio ed il cuore ti si è fermato per un attimo. Piccola, dolce, cara Anna, ecco che devi incassare un nuovo dolore per causa mia. Pochi giorni fa eri qui a Fossano con me. Arrivasti tutta sorridente per portarmi delle buone notizie riguardanti una domanda di grazia che avevi intenzione di presentare. Dicesti che se necessario ti saresti accampata con i nostri ragazzi sulle scale del Quirinale. Avreste fatto uno sciopero della fame per attirare l'attenzione del presidente e dell'opinione pubblica sul mio linciaggio giuridico. Nanuska, piccola dolce pazza, com'è strana l'esistenza, dopo tante brutture, umiliazioni, separazioni, ripensamenti, riseparazioni, alcuni mesi addietro a Fossano ci siamo ritrovati di nuovo, l'una nelle braccia dell'altro, e le sensazioni erano di nuovo quelle del primo giorno, di quel giorno di tanti anni fa, ricordi? Avevi 16 anni ed io appena 17, ci sposammo l'anno dopo. Ricordi la nostra prima stanza tutta per noi? Al posto del tavolo c'era una cassa coperta da una tovaglia. Il letto era ad una sola piazza. Anna, bambina, sapesti quante volte nella mia lussuosa latitanza tedesca ho pensato con nostalgia a quella stanza spoglia, a quel piccolo letto pieno di ricordi così grandi a me e a te, che non avevamo 20 anni e volevamo sfidare il mondo. Già, eravamo cari, eravamo gentili, ma i nostri datori di lavoro speculavano ugualmente sulla nostra età ed il nostro lavoro di operai era pagato con qualifica e stipendio da apprendisti. Già, ma sembrava che le privazioni e la miseria fossero solo cose passeggere, mentre il nostro amore, poi ad essere insieme, dovesse essere eterna. Nel 1960, ricordi? Mi venne il desiderio di fare conoscere anche a te la gioia di una piccola vacanza al mare. Avevi solo 19 anni, eri mamma da pochi mesi. Era una cosa che ti spettava di diritto. Non arrivammo mai sino al mare. La macchina sulla quale ci fermarono era rubata. I soldi che avevo in tasca erano quelli della mia prima rapina. Dopo 5 anni di carcere, nonostante l'apparente volontà, non fu facile riprendere dal punto interrotto. Malgrado la giovanissima età, eravamo entrambi invecchiati. Qualcosa dentro di noi si era rotto. Per te anni d'umiliazioni, d'abbattimenti, di non so cosa. Per me lotte assurde, ancora il carcere, l'evasione, una risata di sfida per mezza Europa, di nuovo il carcere. Quasi 8 anni dopo, alcuni mesi fa, qui a Fossano, ci siamo ritrovati inspiegabilmente abbracciati. Quel giorno, Annina, ridevi e piangevi, ed io, ricordi, raccoglievo le tue lacrime sulla punta delle mie dita. E sono trascorsi solo 4 mesi da allora, ed eri quasi sempre qui a Fossano. Mi parlavi continuamente dei tuoi progetti, delle tue speranze, e tra un bacio e l'altro, tra 2 lacrime, si mischiavano le parole. Grazia, liberazione, condizionata, revisione processuale, tu ci credevi a queste nuove parole magiche che avevi imparate ed io non avevo il coraggio di deluderti. L'ultimo colloquio, Anna, è stato pochi giorni fa. Adesso, ripensandoci, ti ritornerà in mente il mio strano comportamento. Ricordi, Annina, quando la guardia è venuta a dirti che il tempo era scaduto? Presi dolcemente il tuo viso tra le mie mani, guardandoti lungamente negli occhi, come se dovessi imprimermi saldamente il tuo volto nella memoria. Imprimermelo dentro, come se fossi in procinto di intraprendere un lungo viaggio. Ecco, Nanuska, adesso hai compreso tutto e spero che almeno tu che mi hai portato qui i tuoi sorrisi, le tue lacrime, le tue speranze, tu che sei stata rimproverata a mia insaputa da un brigadiere perché a volte eri troppo affettuosa con me durante le ore di colloquio. Sì, perché in carcere è tollerato sodomizzarsi, ma guai baciare con trasporto la propria moglie. Spero che almeno tu non mi condannerai per quello che ho fatto e che farò oggi. Sì, è vero, ho sparato a gente che non era in condizione di difendersi. Mi sto odiosamente barricando dietro 2 poveracci, ma di quante violenze legali siamo stati vittime io e te, tanti altri come noi. Alcuni giorni fa scrissi una lettera per te e i nostri ragazzi. Sul momento ti sarà apparsa una lettera come tante altre, ma adesso, quando la rileggerai, ne comprenderai il vero significato. Era una lettera di speranza, ma adesso, se questa storia finirà tragicamente, diventerà una lettera d'addio. Una porta sbatte con violenza. Sussultiamo tutti e 3. Obbligo Grasso ad alzarsi ed insieme ci avviciniamo alla soglia della nostra stanza. Dico al brigadiere di urlare agli eventuali uomini appostati nel corridoio di andarsene, altrimenti incomincerò a sparare. Alle invocazioni di Grasso fa da eco il silenzio. Attendo qualche minuto, spiando eventuali rumori sospetti. Poi, dopo aver fatto alzare anche Piccirillo, ispeziono il corridoio e le stanze attigue, facendomi precedere dai 2. Tutto è ancora a posto e chiuso a chiave, come l'abbiamo lasciato al mattino. Sarà stata una corrente d'aria. Ore 13. Ho una sete tremenda. Il caldo, le tante sigarette fumate, la tensione. Osservo Piccirillo. Mi sembra che l'aranciata non l'ha danneggiato. L'occhio è ancora vivo. Prendo la bottiglia e bevo un lunghissimo sorso. Grasso non ne vuole. Ascolto con ansia il notiziario radio. Spero d'apprendere particolari sui preparativi esterni, conoscere le loro intenzioni. Le mie speranze vanno deluse, il notiziario è succinto e non mi dà alcuna indicazione che già non conosca. Il silenzio è quasi totale, ogni tanto lontano un cancello che si apre e che si richiude. Bene o male, il carcere continua a funzionare, trascinandosi dietro i suoi regolamenti assurdi, le sue brutalità, le sue speranze continuamente graffiate dalla realtà. Penso ai miei compagni di sventura, alla loro sorpresa, cerco di immaginarmi i loro pensieri. Stanno soffrendo con me in questo momento? Alcuni senz'altro sì, ma la maggior parte mi starà senz'altro maledicendo per il timore che quanto successo porterà delle restrizioni all'interno del carcere. Sì, ci saranno senz'altro dei cambiamenti qui a Fossano e me ne dispiace per quelli che restano. Comunque, che i rassegnati non abbiano troppo timore. In altre carceri ci saranno sempre dei magnifici giovani che saliranno sui tetti a gridare il loro schifo e grideranno così forte che non si sentirà troppo la vostra mancanza. Ogni tanto, quando l'opinione pubblica alzerà un sopracciglio, il grande padre darà una mano di vernice dorata sulle vostre gabbie ed avrà poca importanza, vero? Se poi questi per mesi, per anni, saranno sbattuti da un carcere all'altro, conosceranno solo celle di isolamento e di punizione, angherie, abusi. È tempo che io presenti le mie richieste. Faccio venire l'ispettore al telefono. Gli dico che voglio una vettura veloce, perfettamente efficiente e con il pieno di benzina. Voglio anche 5 milioni in contanti. Gli dico di non meravigliarsi per l'esiguità della cifra. Dati i prezzi che attualmente corrono per i riscatti, ma non intendo approfittare della situazione per arricchirmi. A me interessa la libertà, dato che fuori andrò incontro all'imprevisto. Ho bisogno di un poco di denaro per fare fronte alle mie necessità, nel caso improbabile dovessi farla franca. Queste le mie richieste principali. Voglio sapere al più presto se in alto loco acconsentono prima di entrare nei dettagli minori. Libri ribelli. Libri ribelli.